Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Ci ritroviamo dopo la pausa del primo novembre con il nostro spazio del martedì insieme alla Caritas. Prima di tornare al tema migranti e ospitalità che ci sta accompagnando in queste settimane, un paio di notizie di stretta attualità. Domenica scorsa, l'altro giorno, come sapete, si è chiusa la Porta Santa della Basilica Cattedrale a Padova con la Santa Messa insieme al Vescovo Claudio. Chiusa la Porta della Misericordia, di porta però se n'è aperta un'altra. Una porta della carità con la benedizione di un'abitazione che si trova in Piazza Duomo tra le pertinenze del complesso del Palazzo Vescovile. Si tratta di un appartamento molto semplice destinato a diventare luogo stabile di carità per le persone bisognose. Un segno tangibile che rimarrà appunto di questo giubileo della misericordia e un segno di attenzione ai poveri. Era stato proprio lo stesso Vescovo una decina di giorni fa a dare l'annuncio in occasione della presentazione del bilancio della diocesi agli organismi diocesani. Il Vescovo ha evidenziato in questo segno l'impegno della Chiesa di Padova nell'utilizzare al meglio le proprie risorse, la centralità della carità nella vita della comunità cristiana, carità che è ordinaria e specifica e non un elemento straordinario. Un segno giubilare che contrassegna uno stile di vita che la Chiesa di Padova desidera coltivare sempre di più e meglio in risposta all'appello del Vangelo. Risposta molto forte che è arrivata dalla raccolta fondi per i terremotati. Ricorderete che il 18 settembre scorso, per iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana, si è svolta una raccolta fondi dopo il sisma del 24 agosto. Ebbene, contando la raccolta appunto del 18 settembre, contando altre offerte libere arrivate direttamente alla Caritas, siamo a una quota di oltre 400.000 euro. Il dato è in continua evoluzione e in continua crescita. Ricordiamo che la raccolta fondi è ancora possibile. Tutti i canali e le modalità sono in dettaglio specificati sul sito caritaspadova.it. Ricordiamo che c'è anche l'iniziativa nazionale dei gemellaggi tra diocesi come espressione di comunione ecclesiale nella prospettiva di incontro e scambio tra comunità. La Caritas Padova, in coordinamento con le Caritas del Triveneto, sarà impegnata nel gemellaggio con la diocesi di Spoleto-Norcia. Su questo altri aggiornamenti nelle prossime puntate. Torniamo ora al tema dell'accoglienza dei migranti. Se n'è parlato da tempo, come sapete. La diocesi aveva fatto un invito appunto a fare di più e meglio, ma soprattutto a fare insieme. Allora continuiamo a proporvi esperienze anche molto semplici che già sono in atto nel nostro territorio, ad esempio quella dei frati dell'Istituto Teologico Sant'Antonio Dottore, meglio conosciuto come Istituto San Massimo. Sentiamo la voce del padre Giuseppe Quaranta. La nostra è un'esperienza ancora più piccola e anche più semplice, meno difficoltosa, devo dire, perché abitiamo in via San Massimo. L'istituto è fondamentalmente fa attività culturale, teologica, anche se abbiamo un piano di ospitalità per i parenti degli ammalati dell'ospedale, per cui siamo abituati ad avere, però non abbiamo vicini perché abbiamo l'ospedale. Per cui non abbiamo avuto queste problematiche di integrazione o di relazione col territorio. Abbiamo deciso noi, fondamentalmente, siamo stati interpellati e abbiamo deciso di... ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto quante possibilità, quanti letti abbiamo, stanze abbiamo possibilmente, e ne avevamo pochi, erano due, tre possibilità, perché la casa è piena, proprio non abbiamo... Quest'anno sono aumentati anche i frati in formazione e quindi abbiamo accolto prima due, poi tre tramite la cooperativa, anche noi, Villaggio Globale. E la nostra è un'esperienza di relazione fondamentalmente, perché i ragazzi lavorano durante la giornata, vanno a lavorare a Vigonza, in bicicletta, tutti i giorni, e quando rientrano... cenano con noi. Di fatto il momento è quello della, come nelle famiglie più o meno ci si vede la sera, quindi la cena. Ecco, noi siamo una comunità formativa, nel senso che abbiamo, quest'anno sono 23 frati che sono in formazione, quindi studiano teologia e sono anche in formazione. sono due nigeriani, sono richiedenti asilo. Richiedenti. Sì, due nigeriani e un ghanese. Quindi abbiamo questi frati in formazione, alcuni sono anche coetanei. Tra l'altro quest'anno abbiamo due frati ghanesi, per cui ovviamente è molto più semplice per loro, ovvero che interagiscono bene con loro, ma di fatto con tutta la comunità. Quindi la cena, il dopo cena, vedo che poi loro sono anche molto, vanno anche in camera molto presto, questi ragazzi sono stanchi probabilmente del lavoro e dal giro in bici che devono fare. Sì, tra l'altro in inverno davvero per due nigeriani bardati non è facile, insomma, per noi, ecco, posso dire anch'io che noi siamo comunità internazionale, contavo prima, siamo almeno una decina di provenienze diverse, di nazioni diverse, però fa molto bene anche a noi averli in casa, perché ci provoca delle relazioni così molto semplici e ci fa capire da vicino, vedere da vicino che cosa significa avere 20 anni ed essere qui con la famiglia lontana, la prospettiva futura molto incerta e dover affrontare la vita così. Noi siamo molto più garantiti, molto più sicuri, e questo è sempre motivo di riflessione, insomma, ecco, questo è, diciamo, l'esperienza molto piccola, però ecco, davvero era il massimo che potevamo fare come comunità, l'abbiamo fatto così semplicemente. Era padre Giuseppe Quaranta, frate francescano conventuale dell'Istituto Teologico Sant'Antonio Dottore, o meglio Istituto San Massimo come più conosciuto. La settimana prossima un altro spazio di approfondimento e altri aggiornamenti su questo e altri temi. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.